Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi ritorniamo su un tema che abbiamo affrontato anche la settimana scorsa nel nostro contenitore, in realtà stiamo affrontando ripetutamente anche nel corso delle nostre altre trasmissioni a Focus Economia, ma anche nel corso del giornale radio. È un tema intorno al quale è ovvio stiamo riscontrando un notevole grado di interesse, perché in molti si stanno trovando in una situazione di difficoltà. Parliamo di artigiani, piccoli imprenditori che non riescono più ad accedere al credito bancario. Ieri, come sapete bene, il tema è stato al centro anche dell'incontro fra il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. E come riportano tutti i giornali questa mattina e come anche noi vi abbiamo riferito, c'è l'impegno ad istituire un fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese da 1,3 miliardi di euro. Ieri poi le organizzazioni di categoria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, e tutte quelle che rappresentano appunto le principali piccole categorie produttive, hanno incontrato l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Oggi il tema viene affrontato anche dal Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola. Insomma, tutto questo per farvi capire come si stiano compiendo enormi sforzi per dare una corretta interpretazione della realtà, perché le banche sostengono che continuano ad erogare credito. Gli imprenditori, i piccoli soprattutto, sostengono esattamente il contrario, cioè che vengono a loro revocati improvvisamente gli affidamenti, che non viene erogato alcun tipo di prestito o che comunque l'accesso al credito è diventato più difficoltoso e più oneroso. E allora anche oggi vorremmo soprattutto raccogliere, se volete, le vostre testimonianze all'800 24 00 24 e confrontarle con i nostri ospiti di questa mattina. Per la verità ce n'è uno che stiamo facendo un po' di difficoltà a recuperare, non capisco perché, ma in ogni caso ne approfitteremo per conversare un po' di più con Andrea Crovato, direttore generale di Confidi Lombardia, grazie al quale spiegheremo anche come funziona questi strumenti di garanzia che dovrebbero facilitare la concessione di finanziamenti alle imprese e chissà come si è intensificata l'attività negli ultimi mesi. Dottor Crovato, buongiorno, grazie di essere a Salva Danaio. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde, ve l'ho già ricordato, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Prima però l'appuntamento consueto con la borsa. Oggi abbiamo un'ottima giornata per quello che riguarda i listini europei, ma particolarmente per Piazza Affari, che sta raggiungendo adesso sull'S&P MIB un guadagno del 3%, quindi in Europa la situazione è positiva, non ovunque perché Londra è addirittura negativa, per cui oggi spicca su tutte Milano. Di gran lena oggi volano i titoli del settore bancario trainati da Unicredit, più 12,44% in questo momento per i titoli di Piazza Cordusi. Il gruppo, lo abbiamo detto anche nel corso del giornale radio, ha comunicato i conti del 2008, oltre 4 miliardi di utile, quindi conti superiori alle attese. Il gruppo erogherà un dividendo esclusivamente in azioni. Il gruppo ha fatto sapere anche che farà rinunciare ai bonus, al management, per quello che riguarda quello che sarebbe aspettato loro nel 2008. Insomma, tutte notizie che il mercato apprende come avete avuto modo appunto di vedere con grande favore, con grande interesse. Il titolo tra l'altro sta recuperando 1 euro e 1 quasi. Banco Popolare più 7,68, sta recuperando tutta la debolezza degli ultimi giorni seguita al lancio dell'offerta pubblica di acquisto su Banca Italise, della quale abbiamo parlato ampiamente ieri. Mediobanca più 7, Intesa San Paolo più 7, peraltro i conti di Intesa verranno comunicati venerdì. E tra l'altro su Unicredit non abbiamo detto che il gruppo ha dato mandato all'amministratore delegato Alessandro Profumo di chiedere al governo austriaco e a quello italiano i cosiddetti bond di Stato, quindi per quello che riguarda l'Italia i Tremonti bond, ma la parte più consistente verrà chiesta proprio al governo austriaco, perché è la divisione austriaca quella un po' più in difficoltà per quello che riguarda le attività internazionali di Unicredit, e di conseguenza di Tremonti bond forse il gruppo ne avrà bisogno per circa 1 miliardo, 1,5 miliardi. Bene Autogrill più 5,65, bene oggi anche il settore editoriale grazie ai conti di Mediaset, il titolo del Biscione in rialzo del 4,24%. Segno meno invece su Parmalat e di Talcementi, che stanno perdendo un punto e mezzo, Fiat meno 0,9%. Direi di lasciare la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Oggi Salva Danaio torna sul tema della stretta del credito e le ripercussioni fra le piccole aziende. Si aggrava la crisi economica e peggiora la situazione del credito alle imprese. le aziende hanno bisogno di liquidità, di rimodulare le scadenze dei mutui, di razionalizzare la gestione finanziaria e bussano alla porta degli istituti di credito, il più delle volte senza successo. Dal canto loro, le banche sono molto prudenti verso le imprese che chiedono prestiti, soprattutto verso le piccole. Guardando ai dati della Banca d'Italia sulla crescita del credito bancario, si nota che a settembre era ancora del 12%, a ottobre è scesa al 10%, per attestarsi a gennaio all'8%. Tuttavia, c'è una differenza di trattamento tra le piccole imprese e le altre. A gennaio il tasso di crescita per le grandi imprese era intorno al 7%, per le piccole intorno all'1%. Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, ha chiesto che si faccia di più, appellandosi alle banche affinché, attraverso i Tremonti Bond, forniscano al mondo dell'impresa gli strumenti per il rilancio dell'economia. Ma l'intervento del governo potrebbe non bastare a sbloccare la liquidità. Con la recessione alle porte, gli istituti di credito, già duramente provati dalla crisi finanziaria, hanno paura di una crescita esponenziale delle insolvenze e l'aumento delle sofferenze sui prestiti confermerebbe questi timori. Sempre secondo Banca d'Italia, la grande crisi sta producendo alcuni segnali di vero disagio nelle imprese. Gli incagli della totalità delle imprese, che valevano l'1,4% dei prestiti, sono saliti sopra il 2%. Anche in questo caso, a soffrire di più sono state le piccole imprese. Il 3% ha difficoltà, infatti, a restituire il prestito. E come vi dicevo, tutta questa ampissima problematica è stata al centro ieri del nuovo incontro tra il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. E sentiamo allora che cosa ha detto la Marcegaglia al termine di questo incontro, nel corso del quale è stato concordato l'istituzione di questo fondo di garanzia da 1,3 miliardi di euro. Sentiamo Marcegaglia. L'incontro è stato un incontro costruttivo, direi positivo, in particolare su un punto che per noi era essenziale, cioè il fondo di garanzia per garantire i crediti alle piccole e medie imprese. Ci è stata data una risposta concreta, ci sarà già nei prossimi giorni uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro e quindi questo è un fatto positivo. Su altri punti è in corso un approfondimento, quindi non abbiamo avuto ancora, diciamo, risposte definitive, ma ci siamo ripromessi di studiare insieme delle soluzioni e speriamo che nei prossimi giorni queste soluzioni possano arrivare. Un'altra voce, poi cominceremo la nostra conversazione con voi e con Andrea Crovato, direttore generale di Confidi Lombardia, sul tema del credito alle piccole imprese. L'ABI sta incontrando, come vi abbiamo già detto, le associazioni degli imprenditori. Ieri è stata la volta di Confcommercio, sentiamo il presidente dell'associazione bancaria, Corrado Faissola. Le banche sono solide, voi lo sapete, e quindi possono, le banche italiane, ecco, possono dare un contributo importante allo sviluppo dell'economia. Uno dei punti che noi abbiamo sottolineato è quello relativo, anche, oltre che a far fronte alle esigenze, direi, tecniche di credito a breve che le imprese hanno, anche quello di sviluppare attraverso un'offerta di credito che sia, direi, particolarmente allettante, ecco, gli imprenditori che hanno intenzione di fare nuovi investimenti. Saluto anche e lo ringrazio di essere con noi Luca Orlando, caporedattore dei dorsi regionali del Sole 24 Ore. Luca, come li chiamiamo? Buongiorno. I settimanali regionali, va benissimo, eccoci qua, buongiorno. Luca, allora, voi da qualche tempo state ovviamente esplorando tutte le situazioni regionali per capire un po' come si sta manifestando fra le piccole e medie imprese, fra gli artigiani, questa stretta del credito. Soprattutto una grande attenzione c'era sul numero di settimana scorsa, noi ne avevamo anche parlato, ma in ogni caso puoi darci qualche aggiornamento rispetto alla situazione? Ma sì, la situazione è in movimento continuo e devo dire che da questo punto di vista si è spostata l'attenzione anche delle imprese nei confronti di uno strumento che prima era un po' meno utilizzato, cioè quello dei confidi, i consorzi fidi, che in sostanza fungono da cinghia di trasmissione tra il sistema bancario e le imprese. In sintesi, un'impresa va presso questi consorzi che esamina il dossier, la richiesta di credito, offre una garanzia. A fronte di questa garanzia la banca eroga o dovrebbe erogare il credito in tempi più rapidi e con dei costi inferiori. Quindi questo, diciamo, è il meccanismo virtuoso del sistema. Quello che noi stiamo verificando adesso, lo abbiamo visto in Lombardia, continuiamo a vedere anche in altre regioni, è che in questo momento c'è un utilizzo massiccio dei consorzi fidi in maniera non del tutto fisiologica, nel senso che le imprese si rivolgono ai consorzi anche perché vengono respinte gestite dalle banche. Allora, quello che noi vediamo è, per esempio, che c'è un numero di cancellazioni di pratiche in forte crescita un po' in tutta Italia, un allungamento dei tempi di erogazione, che questo di fatto per le imprese significa uno stop degli investimenti. Certo. E di conseguenza le imprese vanno ai consorzi fidi per farsi aiutare da loro. Gli stessi consorzi fidi però hanno intanto risorse limitate, e questo è uno dei motivi per cui adesso il governo interviene con dei fondi aggiuntivi di controgaranzia che devono consentire proprio soprattutto di sbloccare queste risorse. Ecco, quindi infatti, Luca, scusa se ti interrompo, in realtà questa intesa di massima che è stata così individuata ieri tra Presidente di Confindustria Marcegaglia e Presidente del Consiglio è un'intesa che mira proprio ad alimentare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese già esistente. Esatto, e questo miliardo è un meccanismo complicato, nel senso che apparentemente si tratta di risorse che nel sistema italiano sono molto limitate, perché si parla di 1.300.000.000 di euro, una goccia nel mare per gli investimenti delle imprese. Però in realtà questo 1.300.000.000 per un sistema di garanzie e controgaranzie, per cui in realtà si fa garante lo Stato della solvibilità dei debitori, questo 1.300.000.000 è in grado di movimentare investimenti per una cifra stimata tra i 50 e i 60 miliardi di euro, proprio perché le banche a questo punto si fidano, che a un certo punto in fila, diciamo, all'ultima posizione c'è comunque qualcuno che paga, che poi è questo il problema fondamentale. Infatti. Di Passera, Profumo e degli altri banchieri. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi. Adesso andiamo a vedere operativamente come i Confidi funzionano con il direttore generale del Confidi Lombardia, Andrea Crovato. Grazie ancora. E, dottor Crovato, buongiorno ancora. Buongiorno a lei. Allora, ci può spiegare in termini semplici, Luca lo ha già fatto parzialmente, però visto che tra l'altro abbiamo anche molte testimonianze di ascoltatori che sono già pronti ad intervenire per chiedere e sia chiarimenti sul funzionamento della vostra attività, ma anche così per cercare di capire come mai in ultima istanza qualche volta respingete anche voi, no? Come dire, la pratica al mittente. Ci può spiegare in termini semplici come funzionano questi organismi di garanzia collettiva, ma soprattutto cosa sta succedendo nei vostri uffici in questo periodo? Allora, quel che sta succedendo è presto detto, c'è un sovraccarico ovviamente di richieste da parte delle imprese, ma anche da parte del sistema bancario, e quindi siamo per esempio su incrementi di inizio d'anno, cioè i primi 50 giorni dell'anno, del 300% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Parallelamente le insolvenze stanno crescendo altrettanto, del 300-350%. Le insolvenze stanno crescendo nel senso che ci sono comunque di fatto piccoli imprenditori che a fronte di un credito ottenuto poi non riescono a ripagarlo. Poi non riescono a rimborsarlo. Il problema del fatto che i Confidi possono talvolta respingere le richieste non è dettata da... Prima di tutto io distinguerei tra Confidi che intendono il vecchio sistema, cioè i Confidi cosiddetti iscritti all'articolo 106 del testo unico bancario, e quelli che si stanno predisponendo per il 107, cioè tra i soggetti vigilati, che hanno invece maggiori controlli da parte della Banca d'Italia e quindi sono soggetti più a restrizioni che non gli altri. Ma il problema è che i Confidi sono carenti di patrimonio proprio. Vanno bene i finanziamenti, ci mancherebbe, voglio dire, lo stanziamento che ha fatto adesso il governo di 1.300.000.000 sul medio credito centrale, quindi sul fondo di garanzia centrale, sta benissimo, ma non impatta direttamente sul patrimonio dei Confidi, quindi il patrimonio dei Confidi è limitato. Ma il patrimonio Confidi dei Confidi di Lombardia, per esempio, abbiamo competenza su 8 province della Lombardia, quindi abbiamo 8 uffici proprio nelle province lombarde. Abbiamo un patrimonio che è un patrimonio di 32-33 milioni di euro. Allora, ed è con quello che dobbiamo fare i conti. Certo, no, ma perché tra l'altro, dottor Crovato, quello che io non riesco a capire, io da quello che avevo avuto modo di ricostruire fino a questo momento avevo capito che comunque il consorzio si attiva solo come sistema di garanzia per la piccola e media impresa, quindi voi siete una sorta di figura che accompagna l'impresa a chiedere credito in banca. In realtà voi avete anche la possibilità di erogare direttamente? No, noi noi eroghiamo, ecco. Certo, beh, no, un momento, noi deliberiamo la garanzia, quindi la garanzia la prestiamo alla banca nell'interesse dell'impresa. Perfetto, quindi no, per capire poi qual è la cinghia di trasmissione che ci aveva definito Luca Orlando prima. Sì. Ecco, allora senta, adesso esploreremo ancora un po' più nel dettaglio il funzionamento della vostra attività e come si fa anche a istituire appunto il sistema di garanzia che poi serve alla banca per poter erogare credito alla piccola e media impresa. Sentiamo un po' intanto chi ha avuto modo di incontrare la vostra attività, anche se poi questo incontro non si è concluso in maniera felice. Angelo dalla provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, è proprio esperienza di questa mattina, risultato di questa mattina, abbiamo chiesto un finanziamento in banca, la banca ha già praticamente deliberato il tutto, il problema è il consorzio, quindi scarsa patrimonializzazione, ma io mi domando anche quale patrimonializzazione possa avere un'azienda commerciale. In che settore lavora Angelo? Veicoli ricreazionali. Veicoli, mi scusi? Ricreazionali, camper, roulotte. Perfetto. E quindi insomma lei si è trovato, come molti altri piccoli imprenditori del suo tipo, in un momento di difficoltà, di conseguenza ha avuto bisogno di aumentare le sue entrate dal punto di vista del credito, oppure è una circostanza straordinaria, Angelo? No, è una circostanza straordinaria per quello che ci interessa in questo periodo. Niente, ripeto, la banca, che è Banca Intesa, ha già deliberato l'erogazione del credito, però naturalmente il vincolo era il consorzio. Il consorzio ieri hanno fatto l'assemblea e questa mattina il risultato è che non possono... Non riescono a supportarla in questo momento. Tra l'altro, no. Dottor Crovato, com'è possibile che la banca dia il via libera alla possibilità appunto di erogare credito a questo imprenditore, ma è il consorzio a dire no? Allora a questo punto, Angelo, non potrebbe saltare questo passaggio? Adesso io le faccio proprio una domanda da Alice nel Paese delle Meraviglie, da persona che non conosce poi le dinamiche e il meccanismo. Che cosa ne pensa di questo caso, di questo ascoltatore? È abbastanza diffuso, frequente? No, non è molto diffuso, è abbastanza anomalo. Diciamo che si coniuga abbastanza bene con questo momento di estrema difficoltà, ma non è difficoltà è per le imprese, ma anche per i confidi, anche per le banche. Cioè si fa veramente fatica a volte a declinare una situazione per capirla fino in fondo e quindi per chi lo sa, lì probabilmente intervengono anche valutazioni molto molto locali, molto cose che possono far pendere la bilancia per un no verso un no piuttosto. Ma non è possibile in questo caso che per esempio la banca faccia portavoce di una sensibilizzazione, ecco, con la presenza di una garanzia di un consorzio. Per cui è difficile che possa retrocedere adesso e dire ne faccio a meno. E allora che cosa può essere successo in questo caso? Perché Non lo so. Allora facciamolo, magari ci documentiamo un po' meglio con Angelo, magari poi lei dà un'occhiata così in privato a questa pratica, perché forse credo che sia anche nel vostro interesse capire quando il meccanismo in maniera non giustificata non si inceppa, esatto, e mette in difficoltà un piccolo imprenditore che quindi proprio stamattina ha avuto questa risposta negativa. Insomma, avete capito il tema che vogliamo affrontare quest'oggi, ancora una volta la stretta del credito e come si sta ripercuotendo fra i piccoli imprenditori, da piccola impresa italiana, fra gli artigiani in particolar modo. Peraltro oggi volevo anche ricordare che è stato firmato a Roma, alla presidenza del ministro dello sviluppo economico Scajola, un accordo sottoscritto dal presidente di Federcassa Alessandro Azzi e dai presidenti di Confartigianato, CNA e Casa Artigiani, proprio per l'accesso al credito ancora della piccola e media impresa e il sostegno al settore. Poi vi spiegherò anche quali sono gli obiettivi concreti di questa intesa che è appunto in particolar modo sponsorizzata per quello che riguarda questa dal credito cooperativo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che oggi torna ad affrontare la stretta del credito, soprattutto dal punto di vista della piccola e media impresa, che è in grande difficoltà in questo momento. E come avete avuto modo anche di apprendere questa mattina, ma non solo questa mattina, su tutti i giornali, il tema è al centro di tutta una serie di iniziative che si stanno intraprendendo a livello istituzionale, a livello bancario. E oggi tra l'altro c'è una conferenza stampa anche del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, appunto proprio sul tavolo per la piccola e media impresa, che è in attivazione. E avremo avuto questa mattina anche tra i nostri ospiti un rappresentante della Confartigianato, dopo aver sentito la CNA la settimana scorsa, e c'è tra l'altro anche un piano d'azione in 38 punti per le piccole e medie imprese che deve essere presentato in Parlamento. È stato presentato ieri al Parlamento dal presidente della Confartigianato Guerrini. Questa mattina ci spiace che il rappresentante di Confartigianato sia sparito e non riusciamo a trovarlo, quindi questo volevo dirlo tanto perché almeno i nostri ascoltatori capiscono come mai sto bersagliando di domande l'ospite che è rimasto, che è Andrea Crovato, direttore generale Confidi Lombardia. E però insomma anche questo è un discorso molto utile quello che stiamo facendo col dottor Crovato, perché cerchiamo di capire come funziona questa che abbiamo definito la cinghia di trasmissione tra il sistema del credito e quello imprenditoriale, e cioè come funziona questo sistema di garanzie che i consorzi, i Fidi appunto, attivano in modo tale poi che in maniera un po' più semplice le imprese possano ottenere credito dalle banche in un momento, anche e soprattutto in un momento come questo in cui tutti i rubinetti sembrano essersi chiusi. Allora, dottor Crovato, io sentirei altre testimonianze di altri ascoltatori, così li commentiamo insieme. Roberta da Milano, benvenuta, 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Roberta. Buongiorno Deborah, buongiorno dottor Crovato. Io ho un'azienda che opera nel settore dell'informatica da 9 anni oramai. Sì. Lavoro a Milano e opero con 4 banche come credito. Io mi sono sentita chiamare da 2 di queste banche a gennaio che mi hanno nell'immediato tolto il 50% dei miei fidi anticipo fatture, sì, dicendomi che nell'arco di 2 o 3 mesi avrebbero chiuso anche il restante 50%. Vabbè, quantomeno l'hanno avvisata, va, perché sa. Esatto, nell'immediato un pezzo e l'altro dopo. Tenete conto che io assolutamente non ho chiesto né un aumento dell'affidamento e non sono cambiate le mie rate nei confronti delle banche. Quindi questa è una situazione che stiamo vivendo, cioè un po' tutti lo sentiamo. E che non fa guardare in faccia a nessuno in pratica, esatto. Roberta, certo. Che cosa ha significato per lei tutto questo, Roberta? Si è trovata in difficoltà rispetto a questa iniziativa unilaterale che la banca ha preso perché appunto non l'ha concordata, ma da un momento all'altro... Assolutamente, ho dovuto chiedere sicuramente aiuto ai miei fornitori che anche a loro volta, anche loro a cascata però stanno vivendo questo tipo di situazione, e ho dovuto chiedere aiuto anche ai clienti che comunque fortunatamente sono clienti che pagano nel regolare, avendo comunque fatture che scadono anche a 150 giorni, però in ogni caso pagano nel regolare, ma questo ha creato sicuramente una mancanza di liquidità immediata, tenete conto tra stipendi e tutto, che mi hanno messo in serie difficoltà. Esatto. A molti dipendenti... Io lavoro con una 50-60 di persone. Insomma, una bella aziendina. Esatto. Tra l'altro è un'azienda che non ha mai avuto problemi di tipo finanziario da risultare un'azienda particolare agli occhi delle banche. Quindi oggi che io vedo questo sforzo da parte del governo, questo finanziamento, la mia domanda è... Quando si concretizza? Ma visto che le realtà poi, non so... che ci raccontano le banche in realtà sono diverse da quelle che poi viviamo noi realmente, in che modo noi imprenditori concretamente potremmo accedere a questo finanziamento e se ci sarà un controllo effettivo poi sulle banche che questo avvenga e che ci sia questa nuova apertura appunto nei nostri confronti. Roberta, la ringrazio molto per la concretezza della sua domanda. Io credo che ancora le modalità con cui questa alimentazione al fondo di garanzia alle piccole e medie imprese le modalità con le quali funzionerà non sono ancora ben chiare. Credo che dovrà attivarsi un ulteriore tavolo con l'ABI, con l'Associazione delle Banche Italiane, quindi credo che però sia anche questione di pochissimo tempo, perché non si può paralizzare tutto il sistema produttivo in attesa che anche questo ulteriore fondo si sblocchi. Detto questo, le perplessità e come dire le contestazioni, considerazioni, chiamiamole come vogliamo, di Roberta sono del tutto pertinenti. Dottor Crovato, un'azienda che ha una reputazione solidissima, che non si è trovata in difficoltà perché la sua attività nonostante la crisi internazionale andava avanti, ma la banca non guarda in faccia niente. Intanto comincio con il toglierti la metà degli affidamenti che avevi, e poi si vedrà, magari no. È andato in cortocircuito tutto un sistema, comunque questo è l'amara considerazione che si può fare. Quindi anche tutto i rapporti basati anche sulla fiducia, quindi sono venuti meno, sono venuti a mancare. pagare, insomma. Quindi non so, francamente sì, la signora potrebbe, non so se l'ha già fatto, poteva rivolgersi a un consorzio fidi, che forse questo è il sistema per superare certe perplessità e certi atteggiamenti da parte del sistema bancario. Quindi forse però, diciamo, nel caso delle ascoltatrici sarebbe bastata, forse ce l'ha no, già. No, sarebbe bastata, forse sarebbe stato utile e sufficiente anche comunque, ecco, rivolgersi a un Confidi, perché comunque con una garanzia supplementare forse la banca avrebbe potuto ripensare il proprio atteggiamento. Ecco, adesso non vorrei neanche, questo credo forse dottor Crovato che su questo punto lei potrà trovarsi d'accordo con me, è la panacea di molti mali ma non di tutti, perché poi comunque anche chiedere una garanzia di questo tipo, una certificazione, mi viene da definirla una pagella, non è che non costi niente all'imprenditore. Qual è lo sforzo finale? L'imprenditore costa, naturalmente, perché è impensabile, anche perché poi i Confidi sono chiamati a onorare il proprio impegno, quindi la propria garanzia prestata alla banca, quindi da qualche parte i soldi devono venire fuori. Prevalentemente i fondi con i quali operano i Confidi sono fondi costituiti negli anni, perché teniamo presente che i Confidi ci sono da 40-50 anni in Italia, per cui un bel po' di decenni che stanno operando con le imprese, dai contributi versati dalle imprese come sotto forma di commissioni di garanzia. Quindi l'accumulo di questi negli anni, nel tempo, ha fatto sì che adesso stiamo parlando comunque non di cifre esorbitanti. Confidi Lombardia, ripeto, che è la sommatoria di 8 confidi lombardi preesistenti, ha un patrimonio di 32-35 milioni di euro, stiamo parlando di queste cifre. Il 1,2-1,3 miliardi che è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri è riferito al Fondo Centrale di Garanzia, invece sì. Non sono soldi che andranno a finire nei Confidi, sono soldi che andranno a controgarantire il rischio assunto dai Confidi. Capisco. Allora, vabbè, l'importante è che poi alla fine chi garantisce questi soldi vengano riversati fra gli artigiani e i piccoli imprenditori. Luciano Consolati, responsabile settore credito di Confartigianato, ci ha fatto soffrire un po' stamattina, buongiorno. Buongiorno, scusatemi, ma purtroppo c'era una coincidenza con altre riunioni. Allora, senta, il tema di cui stiamo parlando lei avrà avuto modo di percepirlo da pochi minuti collegato con noi. Giornate intense per quello che riguarda tutte le categorie produttive nel nostro paese e tutte le associazioni che le rappresentano. Voi ieri proprio avete presentato in Parlamento un piano d'azione in 38 punti per le piccole e medie imprese. Nel momento in cui artigiani e piccoli imprenditori aspettano soluzioni rapidissime che partano da ieri, dall'altro ieri, dottor Consolati, qual è il vostro osservatorio in questo momento? Qual è la situazione che ci può raccontare? Ma guardi, innanzitutto confermo la priorità del tema credito, nel senso che al di là dei 38 punti che sono stati presentati ieri, che hanno rappresentato, come si può dire, un po' la summa delle nostre proposte, spaziando dal fiscale piuttosto che dalla competitività e così via, però è chiaro per tutti che oggi la prima cosa a cui pensare è il problema del credito, e quindi garantire la sufficiente liquidità a imprese che si sono viste sparire di colpo in bianco il mercato e con esso appunto la domanda dei consumatori. Infatti ed è stata piena di testimonianze in questo senso già la nostra trasmissione stamattina, così come la settimana scorsa. Anche aziende con un profilo reputazionale assolutamente convincente e buono, aziende alle quali non è cambiato niente nonostante la crisi, da un giorno all'altro si trovano con quantomeno la metà dell'affidamento revocato. Non dico tutto, perché quantomeno ci si salva in questo senso. Chi è un po' più già in difficoltà invece si vede la revoca integrale, esatto. Totale, sì. E infatti da questo punto di vista, per esempio, una delle cose che noi mettiamo fortemente in discussione è l'utilizzo di categorie tipiche del sistema bancario come il merito creditizio, piuttosto che la definizione di imprese sane, che in condizioni di normalità sono assolutamente condivisibili, ma in condizioni di emergenza andrebbero quantomeno declinate alla situazione, perché un'impresa sana fino a novembre 2008 già il 15 dicembre 2008 non era più sana, perché non solo ha visto crollare i fatturati, ma addirittura disdire gli ordini che aveva in portafoglio fino al 2010. Allora, qual è oggi l'impresa sana? Perché se questa è la definizione, non finanziamo nessuno. Questo è il dramma. Quindi devono essere intanto rivisitati i parametri, insomma, di certificazione. Per esempio, un grosso peso ce l'ha anche il rating utilizzato attraverso le normative di Basilea. Anche in questo caso sono parametri, sono rating che possono avere un senso rispetto a certe tipologie di imprese, ma rispetto alla situazione d'emergenza, alla tipologia di imprese che noi rappresentiamo, ci sembrano piuttosto anacronistici e paradossali, quantomeno da rivedere. Allora, adesso io devo andare con i suggerimenti per chi è in viaggio, poi vi farò ascoltare anche altre testimonianze. Vi sottopongo anche un'altra questione: grandi proclami in questi giorni, grandi manifestazioni di ovviamente interventi che dovranno essere fatti. Mi chiedo poi se capita, come per esempio abbiamo avuto modo di rilevare in tante altre occasioni, quando, non so, parliamo di mutui, le banche dicono sì, siamo tutti pronti a rinegoziarli, a venire incontro ai clienti che sono in difficoltà, poi il cliente va in banca e dal direttore di banca si trova un bel rifiuto. Quindi, insomma, se vorrei capire se poi tutto quello che parte dal vertice si trasforma anche in così disponibilità concreta alla base della filiera, anche del credito. 800 24 00 24, numero verde questa mattina di nuovo a vostra disposizione, microfoni aperti agli artigiani, ai piccoli imprenditori in questo momento alle prese con un problema per qualcuno anche drammatico, perché qualcuno chiude anche i battenti per questo problema. La stretta del credito, come si traduce anche nella quotidianità di tutti questi piccoli imprenditori che sono in attesa, appunto, che si concretizzino poi anche le soluzioni che sono in corso di studio in questi giorni a livello istituzionale. Abbiamo parlato anche dell'incontro di ieri sera fra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Ancora un paio di testimonianze e poi continueremo a commentarle con i nostri ospiti. Massimiliano, dalla provincia di Treviso, benvenuto. Sì, buongiorno. Volevo rifarmi a quello che diceva la signora Roberta di prima. Noi praticamente abbiamo delle aziende piccole che fatturano intorno ai 6 milioni di euro l'anno, e da dicembre 2008 a gennaio 2009 ci siamo visti chiudere il 50% dei fidi con una lettera nella quale ci chiedevano il rientro in 60 giorni del 50% degli affidamenti, quindi circa 300.000 euro. E la cosa più grave è che noi operiamo con la banca del San Paolo, ex San Paolo, sì, ora Intesa. Praticamente la banca non eroga più i SAL per le nostre costruzioni, e quindi abbiamo dovuto rivolgerci a avvocati che, tramite diffide e varie pressioni, sono riuscite parzialmente a far erogare i SAL. Come alla banca. Mi spiega cosa sono i SAL, mi scusi Massimiliano. I SAL sono gli stati di avanzamento lavori che, sì, le aziende hanno per contratto, quindi contratti già sottoscritti con le banche, che le banche dovrebbero ottemperare o comunque sia portare avanti. Dal gennaio di quest'anno le banche non volevano più fare SAL, quindi stati di avanzamento lavori per le costruzioni in fase di costruzioni. E non solo, non volevano neanche più ottemperare alle firme di garanzia che loro sono obbligate a fare per contratto con noi, ossia quando io vendo un immobile la banca rilascia una fideiussione a chi compra a garanzia del buon fine di questa operazione. Insomma, Simia, tutto questo che cosa ha significato per lei in questi mesi? Per noi è significato fare forti finanziamenti soci, addirittura abbiamo dovuto fare una denuncia penale alla banca San Paolo perché su un cantiere a Viterbo ha preteso, a fronte di un SAL, il pagamento di una fattura terza di un fornitore, sì, che non aveva chiuso questa sua fattura, quindi diminuendo l'importo a noi dovuto e pretendendo un pagamento per noi non dovuto a un terzo. E peraltro due nostre aziende operano in questo campo, un'altra azienda opera con lo UAV di Venezia, che è l'università di architettura che finanziamo per circa 400.000 euro l'anno. C'era un'intesa con il San Paolo di cofinanziare questa ricerca per l'architettura sostenibile. Ci siamo visti arrivare una lettera nel quale ci dicevano che non se ne è fatto niente, non intendevano più finanziare, quindi dobbiamo sopportare. Sa quello che trovo incredibile io, Massimiliano, e la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, che la banca piuttosto preferisce imbarcarsi in una controversia legale che pure le costerà, pur di non continuare a fare il suo lavoro. E questo già è una cosa incredibile, perché poi magari si trova anche ad aver torto di questa situazione, a pagarci anche le spese legali, ma tutto pur di non continuare a fare il suo lavoro in questo momento, come sarebbe giusto che facesse. Secondo, chiede, non onora anche dei contratti che sono stati sottoscritti con la propria clientela, proprio nelle ore in cui c'è il gran dibattito, in cui tutti i super manager strapagati del sistema bancario chiedono invece che le remunerazioni elevatissime a livello internazionale, questo poi non riguarda il nostro paese, però permettetemi anche la polemica e la provocazione, ovviamente tutti stanno dibattendo intorno al fatto che comunque se un impegno c'è affinché queste remunerazioni elevatissime ai manager delle banche vengano mantenuti, insomma, però la banca poi di fatto non rispetta invece dei piccoli contratti con la clientela. Adesso non so se sono volato troppo alta, però Luciano Consolati di Confartigianato, cosa ci dice il caso dell'ascoltatore che abbiamo appena sentito? Ma guardi, io penso che il caso sia emblematico della situazione di moltissime imprese, che evidenziano due aspetti in particolare, appunto questa restrizione forte del credito, anche perché le banche non è che sono diventate di colpo fatte da dei bruti che vogliono il male dell'economia, indubbiamente hanno anche qualche problema di liquidità di non poco rilievo e quindi sono costrette dal loro punto di vista a muoversi in questa direzione. Il problema è che dall'altro punto di vista le imprese hanno perfettamente ragione ad evidenziare questa situazione e anzi attraverso le loro associazioni a fare con forza, ad elevare un appello perché per una crisi di liquidità del sistema finanziario non si mette in ginocchio tutto il patrimonio produttivo e manifatturiero del nostro paese, perché questo è il rischio. Ecco, dottor Consolati, ci sono banche che agiscono diversamente sul territorio, abbiamo fatto un gran parlare anche della disponibilità del credito cooperativo, la formula molto ancorata sul territorio, questo sistema vi aiuta un po' di più rispetto alla grande banca, adesso ovviamente ne abbiamo due, soprattutto un po' più internazionalizzate delle altre, perché poi le nostre banche tanto in giro per il mondo non ci sono andate. Allora è bene ritornare a far attività con queste? Ma noi abbiamo sempre fatto, parlo del mondo artigiano, microimprese e piccole imprese, abbiamo sempre fatto attività con le banche di credito cooperativo che devo dire anche in questa situazione si sono confermate come quelle più vicine al territorio e quindi alle esigenze delle imprese, anche perché non sono e non soffrono i problemi dei grandi istituti bancari che si erano particolarmente esposti sui mercati internazionali. Quindi senza dubbio ci sono delle diversità, ma se dovessimo fare un ragionamento, come si può dire, di media del pollo, purtroppo il problema reale è il problema di liquidità, certo. Il problema di credito alle imprese, indipendentemente che poi ci sia qualcuno che ne dà un po' di più e qualcuno che dà un po' di meno. E poi ammettendo anche che un piccolo imprenditore voglia magari spostarsi verso una formula bancaria che magari adesso gli potrebbe dare un po' più di aiuto, non è facile anche risolvere rapporti già aperti e chiudere di punti in bianco affidamenti che siano insomma una situazione più complicata di quella che poi si può riuscire a raccontare nei pochissimi minuti anche che ci rimangono. Allora concluderei con un'altra o due testimonianze se ce la faccio. Gianfranco da Padova, rapidissimo, la ringrazio molto. Sì, salve, grazie per la possibilità. Niente, io mi associo completamente a quanto detto dal precedente ascoltatore perché è più o meno la stessa cosa che abbiamo noi. Però io volevo dire anche un'altra cosa. Attenzione che coi consorzi fidi non è detto che si risolve il problema. No, ma infatti banche, l'abbiamo detto, sì, certo. Le banche cosa fanno? Non è che accettano l'eventuale affidamento. Perché? Perché il tasso è più vantaggioso, quindi loro guadagnano meno e quindi fanno in maniera che di non darti anche questa possibilità, perché in questa maniera loro risparmiano. Poi, se permette rapidamente, io vorrei chiedere una cosa: le nostre aziende con la Basilea sono state tartassate per dritto, per lungo, per largo, ma tutta questa confusione, questa situazione economica è stata fatta dalle banche, ma loro perché devono avere quei rating che hanno, non c'hanno nessun problema e a noi basta che ci sia una virgola fuori posto, ci fanno morire? Perché Gianfranco, guardi, nella nostra area stanno chiudendo decine di aziende. Lo so Gianfranco, noi abbiamo deciso per forza proprio per questo di ritornare su questo argomento, anche se lo avevamo già affrontato la settimana scorsa, e di questo tema sono pieni tutti i giornali, perché la situazione, nonostante tutte le iniziative che si stanno prendendo, è in questo momento molto seria, per cui quantomeno abbiamo avuto così quest'oggi il desiderio di tornare ad alzare la voce su questo e cercare ancora di alimentare l'attenzione intorno a questo problema. Non riusciamo a ridare la parola ai nostri ospiti, riorganizzeremo una terza puntata se sarà necessario. Grazie intanto a Luciano Consolati di Confartigianato, Andrea Crovato di Confidi Lombardia. Salva Danaio torna domani. Buona giornata a tutti.